in diretta su CRM Happy Wake Up con Patrizia Curreri. Buongiorno, ma buongiorno amici di CRM Happy Wake Up. Di nuovo ancora con voi Patrizia Curreri qui agli studi di CRM Happy Radio a farvi compagnia questa mattina di lunedì 22 luglio 2013 con il nostro bellissimo mare di Cefalù che potete vedere nel nostro sito www.crmhappyradio.it. È bellissimo questa mattina, il mare è stupendo, il sole c'è e il caldo si fa sentire. Ora, ieri sentivo appunto il meteo e diceva appunto che sta venendo l'afa estiva, tanto attesa da coloro che piace a coloro che piace l'estate, che piace appunto in questo bellissimo caldo. Dovrebbero arrivare picchi di 40 gradi, quindi aspettiamo questo fine settimana, già uno che l'abbiamo lasciato altrettanto bello, pieno di sole, pieno di estate, pieno di turismo qua a Cefalù, perché le persone si vedono, ci sono, e quindi iniziamo questa bellissima mattinata e svegliandoci, anche se abbiamo un occhio chiuso, un occhio aperto, e il nostro motto è svegliarci sempre con il sorriso. Lo potete fare anche voi inviando un sms a 335 56 37 251 o telefonandolo 0921 92 32 92. E adesso la musica di CRM Happy Wake Up, riproponendo un singolo bello che fa ricordare l'estate del 1999. Questi sono i Liquido con Narcotic. Buongiorno ancora con CRM Happy Wake Up. Ecco, è da me, Patrizia Curreri, che vi terrà compagnia fino alle 11, compagnia della buona musica di CRM Happy Radio, la radio che si sente e si vede. For trifles more than this, would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks, sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin will tease me through the night. I hate to leave you bare, if you need me I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addict, you took cocaine, cause all the stuff is out of blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I call your name, Michael Caine. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Fire. Let me see you dance, babe. Questa mattina qui a CRM Happy Wake Up con Zucchero, Baila Morena. E questo sempre bellissimo mare, dice Folu, che qui vedo davanti a me con la nostra webcam, che potete appunto vedere dal nostro sito www.crmhappyradio.it. Ma potete diventare fan della nostra pagina Facebook cercando tra i vostri contatti CRM Happy Radio e cliccando sul bottone mi piace, e quindi essere aggiornati sulla nostra programmazione giornaliera, quotidiana, e anche sulle nostre notizie, su notizie anche che riguardano Cefalù, il comprensorio, e anche notizie a livello nazionale, come li potete sentire anche dal nostro notiziario che gira quasi tutto il giorno tra un programma e l'altro. E mentre girano le notiziari, noi diamo le notizie un po' più curiose, noi di CRM Happy Wake Up, e questa viene proprio dall'Ucraina, perché parliamo della ragazza più forte del mondo, e questa si chiama Varia Akulova. ed è entrata per questo anche nel Guinness dei primati in ben due categorie. Varia è in grado di sollevare oltre 5 volte il suo peso, 350 kg, mentre lei ne pesa meno di 50. Pensate un po'. Varia viene da una famiglia di circensi e quando stava per nascere il padre Yuri sperava che sarebbe arrivato un maschietto in modo che potesse in futuro dare una mano ai genitori negli spettacoli, basati naturalmente sulla forza fisica, un tratto di famiglia da generazioni. Però, ahimè, a lui è arrivata una femminuccia. Dopo aver inizialmente appunto creduto che il suo desiderio non si sarebbe arrivato, il padre ha poi pensato che non c'era motivo per cui una ragazza non potesse essere forte come un uomo. E così, mentre le sue coetanee giocavano con le bambole, Varia sollevava pesi. Questo comunque sotto uno stretto controllo medico, naturalmente, per assicurarne il sano sviluppo. A 3 anni, pensate, Varia si è unita ai genitori come acrobata e a 6 anni era in grado di tenere sulle spalle il padre e a 12 di caricarsi entrambi i genitori. Nonostante la sua forza, continua a mantenere dei lineamenti femminili aggraziati, a quanto pare grazie al fatto che non prende integratori di alcun tipo, essa appunto incomincia a sviluppare questa sua forza. Talmente tanto che appunto è diventata la donna più forte del mondo. Però c'è un lato appunto negativo della medaglia, ossia quello che naturalmente ancora non ha trovato marito. Anzi, molti pensano, sono preoccupati per lei, che appunto nessun uomo mai la sposerà perché è una donna molto forte e quindi naturalmente discrimina un po' il sesso maschile. Anzi, apparentemente un giornale si sarebbe pure spinto oltre, arrivando a sostenere che per le ragazze in generale è sbagliato praticare sport. Qui la mia e il mio istinto femminista un po' prevale, però veramente è qualcosa di assurdo appunto pensarlo in questa maniera. Certo, ognuno poi c'ha i suoi interessi, ognuno c'ha la sua può avere appunto la sua indole anche portata anche dalle abitudini della famiglia. In questo caso tutti sono forzuti, tutti sono abili nel maneggiare appunto pesi, e quindi la nostra Varia si è conformata un po' allo stile di vita della propria famiglia, e quindi maturando appunto questa bellissima forza che nelle donne non solo soprattutto è dentro, ma quando è fuori ancora meglio. E adesso David Guetta con She Wolf, casca a pennello. A shot in the dark, a past, lost in space, where do I start, the past and the chance. You love me, you know. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Non mi capisco, perdo il controllo, faccio paura addirittura anche a me stesso. Ti trovo dentro ogni ricordo, è come un pugno che fa male, male di brutto, inerme incasso, e mi convinco un'altra volta che non è finito tutto. Non cancellarmi, piuttosto dammi almeno un'ora per parlarti e per sfogarmi. Non serve a niente, me l'hai già detto, ma abbi il coraggio di guardarmi dritto dentro agli occhi. Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dove posso andare adesso? Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, per dimenti. Ci sarà un posto dove l'aria non parla di te. Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dimmelo. Vorrei toccarti e respirarti vicino ai punti più sensibili e sentirti gridare forte, non per dolore ma dal piacere, dalla voglia di fare l'amore, di farlo bene senza paura più del tempo, di qualcuno che ci possa separare. Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dove posso andare adesso? Dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, per dimenticare. Ci sarà un posto dove l'aria non parla di te. Ti prego, dimmelo, dimmelo, dimmi, dimmelo, dimmelo, dimmelo. Con i Moda, dimmelo, continua la nostra mattina qui a CRM Happy Wake Up. Che potenza la musica dei Moda, anche c'è un po' di romanticismo, ma poi spuntano con queste canzoni veramente abbastanza forti. E volevo ricordare ancora i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete appunto richiedere la vostra musica, quello che vi scatena in testa in questo momento appena svegli, e potete inviare un sms al 335 56 37 251, telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete diventare fan della nostra pagina Facebook cercando CRM Happy Radio e cliccando sul bottone mi piace. E volevo ricordare di nuovo l'iniziativa dove sono appunto sono associata praticamente, che è quella appunto di adottare i nostri cani, cani di Cefalù, che per adesso troviamo nel canile di Snello. Sono circa 24 cani, tutti da amare, tutti da coccolare, sono veramente stupendi. Io ne ho viste un paio e grazie al mio collega, possiamo dire, di iniziativa, Peppe Turdo, che ha fatto delle bellissime foto a questi cani e che presto potete trovare su Facebook e anche in altri siti. E quindi intanto, se siete curiosi e volete comunque un cagnolino da amare da coccolare, da farvi compagnia come un caro amico che non vi tradirà mai,

to work, 'cause it's like you're my mirror. My mirror's staring back at me, staring back at me. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Everybody get up. Il fantastico Robin Thicke con Blurred Lines a CRM Happy Wake Up. E per la serie di sentirle sempre delle nuove, delle più strane, notizie più strane, questa un po' ce l'aveva accennata già la nostra Katie Holmes, l'ex moglie di non mi ricordo chi, comunque mi verrà in mente. Comunque la nostra Katie Holmes aveva raccontato di un trattamento di bellezza simile. Ma ora dal Giappone la moda di ringiovanire la pelle con le lumache, pensate un poco, sembra prendere piede in tutto il mondo. Il trattamento bizzarro consiste nel farsi applicare sulla faccia 3 lumache e a fare il miracolo sarebbe la bava del mollusco, che rimuove le cellule vecchie favorendo la rigenerazione cutanea. Ottimo anche per le cure delle scottature solari, quindi casca a pennello anche questa notizia, appunto, che arriva proprio nel periodo clou delle scottature solari, dove il sole abbaglia e brucia, come si suol dire. Anche io l'ho potuto constatare sulla mia pelle qualche giorno fa, e quindi adesso anche la bava delle lumache sembra aiutare nella curare appunto queste scottature. Infatti la bava delle lumache è una delle sostanze migliori per la cura e la rigenerazione della pelle, perché contiene antiossidanti capaci di rallentare il processo dell'invecchiamento eliminando i radicali liberi. Inoltre il suo contenuto in proteine è indispensabile per ridare all'epidermide un aspetto sano, giovane e tonico. Come se non bastasse, questa sostanza è ricca di vitamine, riduce le infiammazioni e favorisce l'abbronzatura, garantendo l'idratazione della pelle. Ma nel trattamento, come l'isilio di giovinezza, la proprietà più importante è quella che aiuta a migliorare l'elasticità della pelle e degli inestetismi, curando l'acne, pensate, le cicatrici e anche le smagliature. La scoperta viene dal Perù, dove gli allevatori di lumache si sono accorti di come la viscida bava rimarginava ferite e ammorbidiva la pelle. Più se ne sa, più si studia, ma neanche, perché qua le allevatori naturalmente sono sempre a contatto con le lumache, quindi non c'è bisogno di libri, di ricerche e così via, basta osservare un po' la natura in giro, quindi osservare sempre di più quello che ci sta intorno, come anche le erbe, come abbiamo sempre detto, sono molto importanti per il nostro organismo, per il nostro corpo, così anche i frutti, potremmo dire, dei nostri animali possono garantire anche queste tante tante proprietà per la nostra pelle, per il nostro benessere, che non sono male. Soy de La Habana. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Caribo Giambo Buona, Leo giù a Cale Sana. Caribo Buona, Leo giù a Cale Sana. A Santa Sana, Icio, a Santa Sana. Cascio, Abana, Abana giù a Cale Sana. Olele, olele, ma lì va manca sì. Olele, olele, ma lì va manca sì. Luca, Luca, a Santa Sana, Icio. Radio Conga, ci spostiamo a Radio CRM Happy Wake Up qui con Patrizia Curreri. Sono le 9:49 e ancora ci dobbiamo svegliare, ancora abbiamo un occhio chiuso, un occhio aperto, perché sta iniziando la settimana, questa quasi la terza settimana di luglio, perché ricordiamo che il mese di luglio ha 5 settimane, quindi ci sono 5 sabati. L'altra volta leggevo su Facebook questa particolare momento, situazione che si è creata questo anno 2013. Come tante cose strane, come Radio Conga al centro della giungla, come abbiamo detto appunto parlando delle lumache, arriva una costruzione particolare invece nel centro di Francoforte in Germania, cioè l'ingresso di una fermata della metro molto curiosa, una delle più curiose al mondo. Infatti sembra una vecchia carrozza della metro che si è infilata nel terreno, oppure si è scontrata col terreno. Infatti la stazione è stata costruita nel 1986 e l'idea di utilizzare un vagone come ingresso ha avuto molti riscontri favorevoli, non solo dai viaggiatori e dalla gente comune, ma anche da architetti e design, che hanno spesso sottolineato come l'intuizione sia stata molto intelligente. Se volete dare appunto un'occhiata a questa particolare e curioso ingresso della fermata della metro, oltre a poter visitare il bellissimo centro di Francoforte in Germania, potete dare un'occhiata a Google Street View per vedere altre foto dell'ingresso appunto di questa particolare stazione. Continua la musica di CRM più Wake Up, adesso arriva Kesha con Die Young. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Bruno Mars, Treasure, CRM, Happy Wake Up. E volevo salutare chi mi sta ascoltando invece dal zone di Palmi. Ecco, ieri vi è venuta a trovare la mia cara cugina che non vedevo da un bel pezzo e vi ho passato una bellissima giornata. Ora ne voglio approfittare per farci degli auguri comunque di una bella vita, futura vita insieme, comunque anche insieme a me, che appunto abbiamo trovato una bella complicità, una bella armonia, e spero appunto in futuro di stare ancora insieme come siamo stati ieri. E infatti mi manca tanto, e per questo le dedico una bella canzone che appunto è la nostra canzone, lo dico pubblicamente. Ciao Dani. Una canzone solo per te, per farti sorridere. Questa vita moderna mi stressa, ho la testa sotto una pressa, poca fresca e gente depressa, vorrei vedere il mare dalla finestra. Una volta ci vedevo due prati e non due cantieri bloccati, rispetto agli anni passati siamo tutti un po' squilibrati, con la nostra vita di corsa, con lo scatto alla risposta, con un altro aumento all'imposta e una losca cosca che imbosca. Questo mondo è freddo ma rido e mi sento fortunato, perché tutto ha un prezzo ma nulla vale quanto un tuo bacio. Scriverò una canzone solo per te e poi la canterò per farti sorridere, e cercherò parole bellissime che non saranno mai belle come te. Belle come te. di tutti i miei giorni. Se vuoi, meriti il meglio di me. Tieni il volume più alto che puoi, come piace a te, come piace a te. Quasi quando sei giù di morale e io sono lontano a suonare, la mia voce ti possa trovare, ti ricordi che sei speciale, perché quando ti ho accanto il mondo sembra meno bastardo. Vorrei dirtelo ma non parlo e poi mi perdo in fondo al tuo sguardo. Così fragile, così fiero, così semplice, così vero da lasciarmi senza respiro. In fissa con la faccia da scemo, tu mi guardi con un sorriso e dici che mi manca qualche neurone. Io mi lascio prendere in giro, intanto penso a questa canzone. Scriverò una canzone solo per te e poi la canterò per farti sorridere e cercherò. Come te. Il buongiorno si vede dal mattino con CRM Happy Wake Up. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty. And with every touch you fix them. Now you've been talking in your sleep. Oh, oh, things you never say to me. Oh, oh, tell me that you've had enough of our love, our love. My dear, we still have everything, and it's all in your mind. Yeah, but this is happening. You've been having real bad dreams. Oh, oh, you still lie so close to me. Oh, oh, there's nothing more than empty sheets between our love, our love. Just give me a reason, just a little bit's enough. Just a second. era Pink con Just Give Me a Reason, sempre, sempre un po' di romanticismo nella nostra mattina di CRM Happy Wake Up. Appunto, come dico io, c'è bisogno anche di romanticizzarci un poco, non solo di svegliarci, ma anche l'amore appunto fa girare tutto, tutto il mondo, ma tutte le persone appunto sono animate dall'amore, chi per il proprio partner, chi per la propria famiglia, c'è sempre amore e dobbiamo sempre dare per poi ricevere sempre il doppio, il triplo, il quadruplo, ecco. E ricordo ancora, appunto parlando di amore, naturalmente i nostri cani di Cefalù, che troviamo al canile di Snello e che dobbiamo adottare, perché sono tanti, sono circa 24 cani, sono tanto, tanto amorevoli, tanto dolci. E soprattutto per chi ama gli animali non può vederli dietro una gabbia, e non si possono vedere dietro la gabbia anche se sono trattati benissimo, però non possiamo lasciarli lì da soli senza una compagnia, senza qualcuno che appunto li voglia bene, e a tal punto appunto da tenerli a casa e darsi proprio completamente appunto a questi magnifici cani, che appunto sono i migliori amici dell'uomo, e dobbiamo appunto mantenere, cioè dobbiamo appunto vedere appunto a che punto arriva il loro amore. Lo sappiamo benissimo, appunto vediamo sempre certi episodi di cani che salvano vite e che non lasciano il padrone nonostante si abbandonino, e quindi veramente sono degli cani eccezionali e dobbiamo, degli animali eccezionali, dobbiamo anche proteggerli e amarli quanto più possibile. Quindi chi ha possibilità di mantenere questi cani nelle proprie case o nelle proprie campagne, ecco, può riferirsi a me, come anche al comune di Cefalù, chiedendo di Francesca De Luca, e poi appunto pubblicheremo alcune delle foto di questi cani sul social network e anche su dei siti appunto dedicati a questa iniziativa di Adotto un Cane appunto di Cefalù. Non solo appunto mi riferisco ai miei concittadini, ma anche a coloro che ci stanno ascoltando, ma anche ad altre parti che sono interessati a tenersi un cane a casa oppure avere una compagnia in più a casa, e magari appunto c'è questa opportunità che non è male, appunto regaliamo dei cani che sono trattati bene, appunto ripeto, dal canile di Snello, e quindi c'è questa possibilità. Però per par condicio, dopo aver salutato mia cugina Daniela che vi sta ascoltando, e saluto nuovamente anche se un po' emozionata, appunto l'ho salutato con un po' di emozione, con una certa emozione, adesso naturalmente dedico questa canzone a coloro che mi stanno ascoltando da qui, da Cefalù, alle persone speciali della mia vita, continuando appunto il romanticismo di CRM Happy Wake Up. Saluto prima di tutto la mamma naturalmente, e poi tutti coloro che mi stanno ascoltando della mia famiglia. Ciao! Scusi, in te poi ti ho nascosto tutto e tutti per non farmi più trovare, e adesso che torniamo ognuno al proprio posto, liberi finalmente, non saper che fare, non ti lasciare motivo né una colpa, ho fatto male per non farlo la tua vita, tu eri in piedi contro il cielo e io così, dolente mi levai buttato al satellite. Chi ci sarà dopo di te, respirerà il tuo pensando che sia il mio, io e te, che facemmo invidia al mondo, avremmo vinto mai contro un miliardo di persone, e una storia da buttare, sapessi andarci. amore non avesse fine. Volevo averti e solo allora mi riuscì. Quando mi accorsi che ero lì per perderti, chi mi vorrà dopo di te si prenderà il tuo armadio e quel disordine. Hai lasciato nei miei fogli andando via così, come la nostra prima cena, solo che andavamo via di schiena, incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme. Giorni di te e di me. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it right. I feel so high, I come alive. I need to be free with you tonight. I need your love. to make a change. I need your love, I need your time. When everything's wrong, you make it rise. I feel so high, I come alive. I need to be free. Questo era lo sfumeggiante Calvin Harris con I Need Your Love a CRM Happy Wake Up. E con un po' qua di ventolazione data dal ventilatore qua in regia, un po' mi sento, non so, Rossello Ara con tutti i capelli al vento. E bene, bene, allora siamo sempre qui a CRM Happy Wake Up, non ci siamo spostati. E ricordo i nostri numeri di telefono per poter interagire con me. Potete inviare un sms al 335-56-37251 o telefonare allo 0921 92 32 92, oppure potete seguirci su internet, sito www.crmepiradio.it, dove non solo potete sentirci ma anche vederci dalla nostra webcam. Per adesso vedete me in regia, poco prima c'era la nostra bellissima costa di Cefalù, che non solo c'è la spiaggia, ma ricordo che poi nella parte antistante c'è pure anche la parte vicina, adiacente, e dietro il porto poi c'è tutta la scogliera, che è altrettanto stupenda per chi ama, magari non ama sempre vedere spiaggia, ma c'è anche un po' quelli che amano un po' fare le escursioni tra gli scogli, nei fondali marini. Ecco, noi abbiamo di tutto e di più, quindi vi offriamo la spiaggia, vi offriamo gli scogli e tutto quello che in estate si sceglie di visitare, e soprattutto anche i nostri bellissimi monumenti. C'è la bellissima Piazza Duomo, con il nostro Duomo tanto, tanto invidiato, e poi ricordiamo che il nostro Cristo Pantocratore quest'anno è l'icona dell'anno della fede, quindi c'è quell'immaginetta che circola per tutto il mondo, quindi portiamo il nostro Cristo in tutto il mondo. Poi abbiamo naturalmente il lavatoio medievale, e poi anche la nostra bellissima rocca da visitare per chi ama non solo il mare ma anche la montagna, oppure le escursioni selvagge, wild, ecco, può andare benissimo a visitare la nostra bellissima rocca di Cefalù, dove il panorama è altrettanto stupendo, sia da basso che dall'alto, che di fronte. Comunque Cefalù è sempre bellissima, e molti mi dicono che alle volte, soprattutto la sera, sembra quasi un presepe con quella cattedrale che si erige lì, quindi si vede da lontano, e sovrasta tutta la città. Bellissimo, bellissimo. Ecco, ho fatto un po' di pubblicità alla nostra bellissima Cefalù, quello che ci vuole, ma visitarla è altrettanto stupendo. Le parole sono belle, ma la concretezza deve esserci. Ecco, adesso Daft Punk con Get Lucky a CRM Happy Wake Up, ancora con me, con Patrizia Curreri. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.

questa è la freschissima voce di Alex Britti con Non baciami, un po' include amore ma anche la situazione attuale. Ha detto cerchiamo un po' di lavoro, ecco, che arriva il lavoro un po' per tutti, non è niente male, ecco. Però intanto si studia sempre per andare avanti, sia nelle tecnologie ma anche a livello biologico, quindi negli studi, nell'affinità tra le persone, come nasce appunto una possibile affinità tra uomo e una donna. Ce lo dice il DNA, ossia ci dice non solo se c'è affinità ma se funzionerà quella coppia che si è scelta. Quindi capita che appunto coppie all'inizio con una passione travolgente, poi dopo un iniziale partenza in quarta, aver giurato amore eterno, si ritrova a dover scalare marce e alla fine spesso ingranare l'arretro e arrivare quindi alla separazione. Non sto parlando di macchine ma sto parlando di un rapporto tra marito e moglie, quello che può essere appunto il fidanzamento, il matrimonio, e poi purtroppo quando non ci sono più le energie o magari non c'è più quel sentimento all'inizio, poi ci si tocca separare per non andare in altri problemi, incontro ad altri problemi. Però la scienza ci viene in aiuto, perché attraverso uno studio del DNA si può capire un po' se il partner che abbiamo scelto quindi sia compatibile, quindi ci sia maggiore probabilità che la storia appunto possa durare fino alla morte, come si suol dire. E infatti lo studio che ha valutato gli effetti del kit è stato pubblicato su una rivista australiana, e oggetto del test sono i geni che controllano alcuni neurotrasmettitori come l'ossitocina e la vasopressina. La prima di queste sostanze è indicatore dell'impegno che una persona può metterci nel rapporto, la seconda si riferisce invece alla fede. Quindi l'ossitocina, ripeto appunto per coloro che magari sono gli sfuggito appunto questa parte, l'ossitocina è quella sostanza che è l'indicatore dell'impegno di una persona, che una persona può metterci nel rapporto, quindi l'impegno che una persona può metterci nel rapporto. La seconda, ossia la vasopressina, si riferisce invece alla fedeltà, quindi ci sono questi neurotrasmettitori dedicati appunto a queste particolari facoltà dell'uomo. Ecco dunque che in vista di un nuovo rapporto, anche per valutare quello che già stiamo vivendo, basterà prelevare un piccolo campione biologico per eseguire il test e ottenere il responso su quali sono le potenzialità del partner nell'impegnarsi in un rapporto serio e duraturo e quanto elevata è la probabilità che sia fedele o al contrario traditore. Al momento i test sono stati condotti soltanto sui maschi, ma presto si prenderanno in esame anche soggetti di sesso femminile. Solo a questo punto il kit sarà immesso sul mercato, e nel frattempo, per valutare se il potenziale partner ha tutti i requisiti che cerchiamo, non ci resta a noi che seguire il nostro istinto e rivolgerci magari alla cartomante di turno per chi ci crede. Io non ci credo, tutto è scritto nel nostro destino, basta seguire la strada che si apre davanti a noi e lì c'è scritto se siamo fedeli o se siamo comunque affini oppure no. E adesso hola, I am love. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday, rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday, she had me deep on Tuesday, shut me up on Wednesday. Wish I was not, wish I was not. But I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love, I'm in love. Yeah, I say, why, what you gon' say? I'm a sucker when she pulls her game. Yeah, I say, why, what you gon' do? I'm a junkie when she calls my name. 'Cause I'm in love. It's stupid. Somebody curb this Cupid. Wake me up or lose me. I messed it up, I messed it up. Whoa, turn me upside down. This girl, turn me inside out. This girl, what you want me to say? I messed best it ask you. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. You feel sad, there never was a story, obviously. There'll never be. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? What I need from you, no. And you will never know. I will never show. What I feel, what I need from you, no. No, you will never know. What I need from you, no, no, no, no, you'll never know, no, no, no, you'll never know, no, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. What I need from you, no, no. E questa era Imani con You Will Never Know a CRM Happy Wake Up. E per, ritornando un po' a parlare sempre del nostro comunque comportamento, del nostro, delle relazioni che intercorre tra la nostra scrittura e il nostro, la nostra indole, il nostro modo di relazionarci e di essere, sempre grazie alle parole della nostra espertida Candida Divantino. Adesso, dopo aver parlato di scarabocchi, come l'altra volta, chi ci segue lo sa, e adesso parliamo del tratto, ossia se quando scriviamo, quando facciamo i nostri scarabocchi, il tratto è forte oppure è molto debole, soprattutto quindi analizzandola sui bambini che all'inizio fanno questi scarabocchi e quindi incidono tanto sul foglio oppure no. Se il tratto è forte e quindi il bambino ha calcato molto sul foglio, significa che è dotato di una forte energia psicofisica, determinato e sicuro di sé, e anche testardo, è iperattivo e non riesce a stare fermo, deve fare sempre qualcosa e bisogna lasciarlo fare, in modo che liberi questa sua grande energia, perché se frenato potrebbe scaricare la sua aggressività non solo su oggetti e giocattoli ma anche su altri bambini. Quindi è compito dei genitori cercare di aiutarlo a incanalare in maniera equilibrata la sua grande vitalità. Invece se il tratto è debole, quindi molto leggero, significa che è un bambino timido, un po' fragile e soprattutto ipersensibile, si affatica facilmente, quindi non bisogna eccedere in sollecitazioni. I genitori, ad esempio, non devono obbligarlo per forza a fare attività fisica o sportiva, e la sua reazione potrebbe essere di forte chiusura. È un bambino che ha difficoltà di relazione, si chiude spesso in se stesso, è diffidente, ha paura di entrare in contatto con l'ambiente e patisce molto gli atteggiamenti negativi nei suoi confronti. Deve sentirsi amato e gratificato in modo che possa dare libero sfogo ai sentimenti, che sono la sua vera ricchezza. Tutto il resto va da sé, pian piano crescendo. Quindi questo è un po' come capire un po' i propri figli, ma anche noi stessi, perché un po' crescendo anche noi continuiamo a fare tratti pesanti o leggeri, quindi sappiamo un poco come è cresciuto il nostro carattere. Ma siccome viviamo di ricordi, e la musica ci porta un po' a portarli, ci porta a galla, le dice li porta a galla, e spero che il nostro Salvatore, che ci sta ascoltando dalle parti della campagna, possa ricordare questa canzone con piacere e magari appunto rivivere quei ricordi che per me sono molto cari. Questi sono i Blink 182, All the Small Thing. CRM Happy Wake Up, la vostra colazione in musica. Il sorriso non lo perder mai, qualunque cosa ti accada, qualcosa ti inventerai, non la vedi ma la tua strada, e quando ti accorgerai, ti sembrerà un'altra storia, è quella che lascerai, e non si toglie più l'odore della paura, a meno che tu non ricordi com'era. Può subirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutti, i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola, non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Il tramonto lo guarderai, come fosse l'ultimo al mondo, e negli occhi che rimarrai, come fossi l'unica al mondo. E se il tempo lo stringi in mano, il giorno dura un secondo, tu sempre più lontano, e tutto il bene sei tu, perché il destino ci spezza, e perché non vuoi più, più nessuna tristezza. Può stupirci ancora tante volte, questa vita è forte, trova le risposte. E tanto dimentico tutti, i luoghi che ho visto, le cose che ho detto, i sogni distrutti. La storia non è la memoria, ma la parola, non vedi che cosa rifletti, sopra un mare di specchi si vola. Io, lei, voi, la mia vita, la tua vita, qui morirei domani, dai, non dire così, guarda in alto con la testa, fammi di sì, qui, ora, adesso, poi, so che cos'è che vuoi, l'alluvione su di noi, stringimi più che puoi, fuori il tempo sta finendo, non parlare se non vuoi, chiudi gli occhi da ora in poi, qua su. E io non dimentico come fa la nostra Emma Marrone con questa canzone Dimentico Tutto, e non dovete dimenticare voi l'appuntamento per venerdì dalle 9 alle 11 con l'ultima puntata estiva del DCRM Happy Wake Up. E sì, perché vado in vacanza pure io, e anzi mi devo impegnare anche a organizzare la festa del Santissimo Salvatore per i nostri cefaludesi, che sono sempre legati a questa festa, e comunque è la nostra festa di Cefalù. E vi lascio con la frase finale, che è questa: l'obiettivo non è vivere per sempre, l'obiettivo è creare qualcosa che vivrà per sempre. E con questa frase vi lascio, vi do un bacione grossissimo a tutti i miei fan di CRM Happy Wake Up, a chi ci sta ascoltando da vicino e da lontano, un bacione a tutti, ciao ciao, a venerdì.